America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Bene, avete sentito l'accoglienza di ieri all'arrivo di Donald Trump a Bruxelles, una banda, la musica, grandi onori, e dovunque è andato, devo dire, Donald Trump è stato accolto molto bene. Questa mattina è stato accolto molto bene durante gli incontri della NATO, c'è il rapporto con l'Unione Europea, di nuovo un rapporto con i capi di Stato che sta andando piuttosto bene, sicuramente in modo molto più costruttivo rispetto a quello che sembrava promettere l'avvio dell'amministrazione Trump. Ecco, detto questo c'è, come dire, c'è un Trump a due velocità. C'è il Trump del viaggio all'estero, dove viene accolto con molti onori, dove deve concludere degli accordi importanti, però posso garantirvi che negli ultimi giorni Donald Trump non ha mai avuto un titolo di apertura, per esempio sul New York Times, per esempio nelle televisioni americane. Certo, ci sono articoli su quello che fa, su quello che dice, ma le aperture sono sempre su questioni di politica interna e su quelle che sono le questioni più spinose per il presidente americano. Beh, ve ne cito una, tanto per farvi un esempio. Notizia di ieri che dopo la presentazione del bilancio del Congresso, l'altro giorno, è stato presentato martedì, da un'analisi si è scoperto che la riforma sanitaria di Trump potrebbe lasciare 23 milioni di americani senza copertura assicurativa medica. Questo nel giro di 10 anni. Ma partiamo dalle notizie della tappa a Bruxelles. Questa mattina, in tarda mattinata, c'è stato l'incontro con l'Unione Europea, c'è stato poi un incontro a colazione con Macron e poi nel pomeriggio l'incontro con la NATO. Una giornata tutta europea. Si è parlato delle varie sfide, soprattutto di terrorismo. Insomma, il terrorismo è la questione ricorrente, soprattutto dopo quello che è successo a Manchester. Pensate quanto la Francia tenga al terrorismo. Pensate al Belgio, che è stato travolto da attacchi feroci. Dunque, tema dominante. Ma tema dominante è anche quello del rilancio dell'economia. Donald Trump vuole un'Europa in crescita, non vuole un'Europa in stagnazione, prudente, vuole un'Europa aggressiva. Perché? Ma perché è nell'interesse dell'Europa crescere, non soltanto per il benessere economico, ma devo dire anche per la stabilità politica, per evitare che ci siano tensioni, malumori e che ci sia il ritorno del populismo, che ci sia il ritorno di quella superficialità che non aiuta il processo di evoluzione, non soltanto dei singoli paesi membri, ma anche quello naturalmente dell'Unione in quanto tale, in quanti hanno detto che l'Unione in crisi e che dovrebbe essere addirittura smembrata. Ecco, lo aveva detto a un certo punto anche Donald Trump, non in modo così diretto, ma aveva fatto capire che voleva dialogare più con i singoli paesi. Invece poi la marcia è cambiata, per fortuna, grazie all'intervento di personaggi come appunto Mattis, come Tillerson, come H.R. McMaster, capo per il Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Altro tema centrale, quello della NATO. L'alleanza della NATO, soprattutto dopo l'attentato di Manchester, deve focalizzarsi sul terrorismo. Sentiamo Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO. The attacks were brutal. For me, this just underlines the importance of standing together in the fight against terrorism. I expect NATO allies to step up and agree to do more in the fight against terrorism. Ecco, Stoltenberg lo dice con molta chiarezza, l'incontro partirà fra poco, però sappiamo benissimo cosa dirà Donald Trump. Dirà due cose. La prima, quella che ha ripetuto mille volte, vuole che i paesi membri rispettino il loro contributo del 2% del PIL per le spese militari. La seconda, che la missione della NATO deve cambiare, è una missione che deve focalizzarsi soprattutto sul terrorismo. E qui Stoltenberg, nelle dichiarazioni che ho fatto ascoltare, ci ha dato un po' un assaggio di quello che sarà l'andamento di questo incontro, perché, dice Stoltenberg, l'attacco di Manchester conferma l'importanza di combattere tutti uniti il terrorismo. Mi aspetto perciò che gli alleati della NATO facciano un passo in avanti e decidano di fare di più nella lotta contro la minaccia terroristica. Ecco, il di più che cosa significa? Significa coordinarsi, significa avere risorse, significa aiutare i rifugiati, significa addestrare le truppe, ma non significa, ha chiarito Stoltenberg, mandare delle truppe sul campo di battaglia. In questo momento, ha detto, le operazioni di combattimento sono fuori discussione. Nessuno vuole che la NATO combatta. Beh, questo non lo vuole neanche Donald Trump, che non vuole neanche mandare i suoi boots, i suoi uomini al fronte, per esempio in Siria o per esempio al fronte di Raqqa, tanto per citare uno dei fronti caldi, dove invece sono i curdi a combattere per conto di tutti. Ecco, ma veniamo alle questioni interne. Questo è un audio di John Brennan, ex capo della CIA, quando ha parlato davanti alla commissione parlamentare che sta facendo l'inchiesta sulla Russia. Sentiamo. I was worried by a number of the contacts that the Russians had with US persons to work on their behalf. Again, either in a witting or unwitting fashion. Ecco, Brennan dice: ero preoccupato per i frequenti contatti di alcuni collaboratori della campagna di Trump con i russi. So esattamente cosa i russi cercano sempre di fare: usare le persone per i loro scopi, sia che queste ne siano consapevoli o meno. Ecco, Brennan dunque dice che lui sapeva, la CIA sapeva. Abbiamo appreso proprio ieri sera da fonti stampa americane, dal New York Times in particolare, che le spie americane avevano addirittura intercettato delle spie russe che parlavano fra di loro e che in modo molto così spavaldo dicevano che avevano sotto il loro controllo degli importanti personaggi americani e che questi avrebbero convinto Donald Trump a fare certe scelte politiche nei confronti della Russia. Dunque una manipolazione. Ecco, insomma, questo è il lavoro anche delle spie, naturalmente, non è che ci dobbiamo scandalizzare. Però, questo è il fatto grave, fino a che punto alcuni degli uomini di Donald Trump sapevano che i russi stavano cercando di manipolare le elezioni, fino a che punto li hanno aiutati per poter cercare di avere il loro appoggio e vincere questa battaglia elettorale che era comunque difficile. Chi sono gli uomini? Beh, c'è Manafort, per esempio, che era il capo della campagna elettorale, che poi è stato costretto alle dimissioni. Poi c'è Michael Flynn, anche lui costretto alle dimissioni, ex generale, ex capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Anche lui rischia molto, a questo punto rischia addirittura l'incriminazione. E dire che Barack Obama aveva suggerito a Trump di non nominare Flynn. Obama evidentemente sapeva qualche cosa, anzi sapeva probabilmente molto. Se Trump lo avesse ascoltato, beh, Flynn, proprio per il fatto di non aver assunto alcun incarico formale, probabilmente oggi sarebbe molto più tranquillo, come lo sarebbe il presidente americano Donald Trump. Ci sarebbero migliaia di approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, per Donald Trump c'è un momento straordinario, adulazione, successo all'estero, ci sono i momenti difficili invece a casa, come dire un ottovolante di buone notizie e cattive notizie. Dunque, ma perché non vi faccio ascoltare dei Led Zeppelin? Good times and bad times. Momenti buoni e momenti brutti. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!